Paragrafo 3. La planaria predigerisce le sue prede esternamente per poi aspirarle una volta liquefatte. Questo platelminta, o verme piatto, che in Italia raggiunge al massimo 3 cm di lunghezza, si nutre di invertebrati e di organismi in decomposizione. Può resistere per vari mesi senza cibo, utilizzando le proprie riserve e infine autodigerendo i propri organi interni che riforma quando riprende ad alimentarsi. La caratteristica più stupefacente della planaria, infatti, è la sua capacità rigenerativa. Se si taglia una planaria in vari pezzetti, ognuno di essi sarà in grado di riformare l'intero animale. In un articolo scientifico si riporta che in alcune specie porzioni delle dimensioni di un 279esimo del corpo sono in grado, in alcune settimane, di ricreare l'intero organismo.